Capitolo 9. Quella vecchia pettegola di Rachel Lind è stata qui di nuovo oggi a importunarmi per una sottoscrizione destinata all'acquisto di un tappeto per la sagrestia, disse il signor Harrison molto adirato. Detesto quella donna più di tutti al mondo, è capace di rifilarti un intero sermone, testo, commento e relativa richiesta di 6 parole e di scaraventartela addosso come fosse un mattone. Anna se ne stava appollaiata sul margine della veranda a godersi l'incanto di un mite vento che soffiava sul campo appena arato in un grigio crepuscolo novembrino e che fischiava un grazioso motivetto tra i pini ondeggianti sotto il giardino. A quelle parole volse il volto sognante verso il signor Harrison. Il guaio, disse, è che lei e la signora Linde non vi capite. È sempre questo che non va quando due persone non simpatizzano. Neanche a me da principio andava tanto la signora Linde, ma appena l'ho capita ha cominciato a piacermi. La signora Linde a certuni può benissimo essere diventata simpatica, in quanto a me non avrei mai continuato a mangiare banane che non mi piacciono se qualcuno mi avesse detto che con il tempo mi sarebbero piaciute, borbottò il signor Harrison. In quanto a capirla, poi, io capisco che è un intrigante, bella e buona, e gliel'ho detto. Oh, questo l'avrà ferita nei suoi sentimenti, fece Anna in tono di rimprovero. Come ha potuto dirle una cosa simile? Io le rinfacciai delle cose terribili un mucchio di tempo fa, ma avevo perduto le staffe. Non sarei capace di dirle certe cose a freddo. Era la verità, e sono convinto che la verità si debba dire a tutti. Ma lei non dice tutta la verità, obiettò Anna. Lei dice soltanto la parte sgradevole della verità. Per esempio, mi avrà detto una decina di volte che ho i capelli rossi, ma non mi ha mai detto, invece, che so che ho un bel naso. Perché lo sa benissimo, senza che nessuno glielo dica? Ridacchiò il signor Harrison. So benissimo anche che ho i capelli rossi, anche se ora sono assai più scuri di una volta, perciò non ci sarebbe motivo di dirmi neanche questo. Va bene, cercherò di non dirglielo più, visto che è così suscettibile al riguardo. Deve scusarmi, Anna. Ho preso l'abitudine di parlare schietto e la gente non deve prendersela per questo. Ma non può farne a meno di prendersela, la gente. E non credo che serva a niente pensare che è un'abitudine. Che cosa penserebbe di una persona che se ne andasse in giro a ficcare aghi e spilli nella pelle del prossimo e dicesse: Ah, scusatemi, non fateci caso, è solo un'abitudine che ho? Penserebbe che è matta, no? E in quanto alla signora Linde, che sia un'intrigante, beh, forse lo è, ma le ha mai detto che è molto comprensiva e che ha sempre aiutato i poveri e che non ha mai fatto parola di quando Timothy Cotton le ha rubato un vaso di burro dal caseificio e ha detto alla moglie di averlo acquistato da lei? La signora Cotton, la prima volta che la vide, dopo il fattaccio, protestò che il burro sapeva di rapa e la signora Linde si limitò a dire che le spiaceva molto che fosse venuto così cattivo. Immagino che abbia anche qualche buona qualità. Ammise di malavoglia il signor Harrison. Molti ne hanno, ne ho anch'io, anche se lei non le sospetta neanche lontanamente. Ma in ogni caso non ho intenzione di dare nulla per quel tappeto. Mi sembra che qui la gente non faccia altro che bussare a quattrini. A proposito, come va il suo progetto di ridipingere il circolo? Oh, a gonfie vele. Abbiamo avuto una riunione della società venerdì scorso e abbiamo visto che con le sottoscrizioni ottenute abbiamo abbastanza denaro per ridipingere i muri e sistemare il tetto. Molta gente ha contribuito con grande generosità, signor Harrison. Anna era una ragazza mite e gentile, ma all'occasione sapeva instillare veleno anche nelle parole più innocenti. Beh, di che colore avete deciso di dipingerlo? Abbiamo deciso per un bel verde. Il tetto sarà rosso scuro, naturalmente, e il signor Roger Pye comprerò oggi la pittura in città. Chi è che fa il lavoro? Il signor Joshua Pye di Carmody. Ha quasi finito di aggiustare il tetto. Abbiamo dovuto impegnarci con lui perché ognuno dei Pai, e sono 4 famiglie come lei sa bene, ha detto che non avrebbe tirato fuori un centesimo se il lavoro non fosse stato affidato a Joshua. Tra tutti avevano sottoscritto $12 e abbiamo pensato che erano troppi per perderli, anche se qualcuno dice che non avremmo dovuto affidare il lavoro ai Pai. La signora Linde dice che pretendono di fare tutto loro. Il problema è se questo Joshua eseguirà il lavoro a puntino o no. Se lo farà, non vedo cosa importi se si chiama Pye o Pudding. Pare che goda fama ad essere un buon operaio, anche se dicono che è un tipo bizzarro. Non apre quasi mai bocca. Ah, allora è bizzarro di certo. disse seccamente il signor Harrison. O almeno la gente qui lo considererà tale. Io non sono mai stato un gran parlatore finché non sono venuto ad Avonlea. E allora ho dovuto iniziare. Per difesa personale, si intende. Altrimenti la signora Lind avrebbe detto che ero muto e avrebbe avviato una sottoscrizione per insegnarmi il linguaggio dei segni. Se ne va così presto, Anna? Sì, devo andare. Ho della roba da cucire per Dora stasera. E per giunta a questo punto devi stare sicuramente spezzando il cuore di Marilla con qualche nuova monelleria. Stamattina la prima cosa che ha detto: dove va il buio, Anna? Voglio saperlo. Gli ho detto che andava dall'altra parte del mondo, ma dopo colazione mi ha dichiarato che non era vero, che andava in fondo al pozzo. Marilla dice che l'ho accolto a spenzolarsi sul pozzo per ben 4 volte oggi, cercando di raggiungere il buio. È un birbante, dichiarò il signor Harrison. Ieri è stato qui e prima che io rientrassi dal fienile ha strappato 6 penne dalla coda di Ginger. Quel povero uccello, da allora è depresso e fa il muso. Quei bambini devono essere un bel problema per voi a casa. Tutto ciò che vale la pena di avere rappresenta sempre un problema, disse Anna, decidendo in cuor suo di perdonare la prossima birichinata di Davy, quale che fosse, dato che lui l'aveva vendicata con Ginger. Il signor Roger Pye portò a casa la pittura per il circolo quella sera e il signor Joshua Pye, un uomo arcigno e taciturno, cominciò a dipingere il giorno successivo. Nessuno lo disturbò nel suo compito. Il circolo era situato su quella che veniva chiamata la strada bassa. Sul finire dell'autunno la strada era sempre bagnata e fangosa e la gente che andava a Carmody preferiva servirsi della strada alta, anche se un po' più lunga. Il circolo era così fittamente circondato da boschi di pino che era invisibile a meno di non esservi molto vicino. Il signor Joshua Pye finì di dipingere in perfetta solitudine e indipendenza, care ambedue al suo cuore poco socievole. Il pomeriggio del venerdì terminò il lavoro e andò a casa, a Carmody. Subito dopo, la signora Rachel Lind si trovò a passare di lì, sfidando il fango della strada bassa per la curiosità di constatare che aspetto avesse il circolo ricreativo dipinto a nuovo. Svoltò la curva dell'abete rosso e lo vide. Quella vista ebbe uno strano effetto sulla signora Lind e la lasciò cadere le redini, sollevò le mani ed esclamò: «Misericordia!» Poi restò a occhi sgranati, come se non riuscisse a credere a quel che vedeva. Infine fu colta da un eccesso di risa quasi isteriche. Ci deve essere un errore, ci deve essere. Lo sapevo che questi Pai avrebbero combinato qualche pasticcio. La signora Linde tornò a casa con il calesse, incontrando per via parecchia gente e fermando tutti per raccontare del circolo. La notizia si diffuse in un baleno. Gilbert Blythe, che era in casa a spremersi le meningi sopra un libro di testo, la sentì dal garzone di suo padre al tramonto e corse senza fiato fino a Green Gables, raggiunto per via da Fred Wright. Trovarono Diana Barry, Jane Andrew e Anna Shirley, immagini personificate della disperazione, al cancello del cortile di Green Gables, sotto i grandi salici spogli di foglie. «Dimmi che non è vero, Anna!» esclamò Gilbert. «E invece è proprio vero», rispose Anna, che pareva la musa della tragedia. «La signora Linda è venuta a dirmelo tornando da Carmody. Oh, è un disastro bell'e buono. A che serve di migliorare le cose?» «Che cos'è un disastro?» chiese Oliver Sloane, che arrivava in quel momento con una scatola di nastri che aveva comprato in città per Marilla. «Non lo sai?» disse Jane rabbiosa. «Beh, non è che questo Joshua Pye ha dipinto il circolo di azzurro invece che di verde, un azzurro intenso, brillante, della tonalità che usano per dipingere i carri e le carriole. E la signora Linde dice che è un colore spaventoso, specie se associato al rosso del tetto. È il colore più spaventoso che abbia mai visto o immaginato. Saresti riuscito a buttarmi a terra con una piuma quando l'ho saputo. È deprimente, dopo tutta la pena che ci siamo data». «Come diamine è potuto accadere un simile sbaglio?» si lamentò Diana. La colpa di questo disastro irreparabile fu alla fine circoscritta ai Pai. I progressisti avevano deciso di utilizzare le vernici Morton Harris e le vernici Morton Harris avevano una tabella dei colori. L'acquirente sceglieva il colore desiderato sulla tabella e ordinava i barattoli contrassegnati dal numero corrispondente. Il numero 147 era la tonalità di verde desiderata e quando il signor Roger Pye aveva mandato a dire ai progressisti, tramite suo figlio John Andrew, che aveva intenzione di recarsi in città e che quindi poteva comprare la pittura per loro, essi avevano detto a John Andrew di pregare il padre di acquistare il numero 147. John Andrew giurò e spergiurò di averlo fatto, ma il signor Roger Pye dichiarò in tutta lealtà che John Andrew gli aveva nominato il 157. E così stanno le cose tutt'oggi. Quella sera la costernazione assoluta regnò in tutte le case di Avonlea, dove viveva anche un solo progressista. A Green Gables la tetraggine era così profonda che ridusse al silenzio perfino Davy. Anna piangeva e non voleva essere consolata. «Devo piangere, devo, anche se ho quasi 17 anni, Marilla», singhiozzò. «È una tale mortificazione!» E ha tutta l'aria di essere la campana morto della nostra società. Sarà cancellata dalla faccia della terra, sepolta dal ridicolo. Però, nella vita come nei sogni, tutto va all'opposto di quanto ci si aspetterebbe. La gente di Avonlea non rise, erano troppo arrabbiati, tutti. Era il loro denaro che era stato speso per dipingere il circolo e di conseguenza furono essi a risentirsi profondamente dell'errore. La pubblica indignazione si concentrò sui Pai. Roger Pye e John Andrew avevano combinato il pasticcio tra loro due e in quanto a Joshua Pye doveva essere un emerito imbecille per non sospettare che ci fosse qualcosa che non andava quando aveva aperto i barattoli e aveva visto il colore della pittura. Joshua Pye, così chiamato in causa, ribatté che il gusto della comunità di Avonlea per i colori era una faccenda che non lo riguardava, qualunque fosse la sua personale opinione. Era stato ingaggiato per dipingere il circolo, non per discuterne, e intendeva essere pagato. I progressisti gli pagarono il compenso dovuto, pieni di rancore, dopo essersi consultati con il signor Peter Sloan, avvocato. Dovete pagare, disse loro Peter. Non potete considerarlo responsabile dell'errore, dal momento che sostiene che nessuno gli ha mai detto quale dovesse essere il colore, ma che gli sono semplicemente stati consegnati i barattoli dicendogli di procedere. È veramente una vergogna, comunque, il circolo ricreativo ha un aspetto orrendo. Gli sfortunati progressisti presumettero che l'intera Avonlea fosse ora più che mai mal disposta nei loro confronti. Invece, la simpatia generale mutò rotta in loro favore. La gente pensava che quel gruppetto di giovani entusiasti e ben intenzionati, che aveva lavorato sodo per raggiungere il suo scopo, era stato male ripagato. La signora Linde li consigliò di tener duro e di mostrare ai Pai che esisteva gente al mondo capace di fare le cose senza combinare guai. Il signor Major Spencer li informò che avrebbe provveduto a ripulire di tutte le radici la strada di fronte alla sua fattoria e che vi avrebbe piantato l'erba a sue spese. E la signora Sloane, la moglie di Hiram, si recò a scuola un giorno e chiamò con aria misteriosa Anna fuori nel portico per dirle che se la società desiderava piantare dei geranei all'incrocio della strada, non doveva preoccuparsi della sua mucca, perché lei stessa avrebbe fatto in modo che quel vorace animale restasse nei limiti che gli erano stati assegnati. Perfino il signor Harrison ridacchiò in privata sede, ammesso che fosse capace di ridacchiare, ma ufficialmente fu tutto simpatia. «Non si preoccupi, Anna, la maggior parte dei colori peggiorano con gli anni, ma quell'azzurro è così brutto fin dall'inizio che non può che migliorare». E il tetto è stato riparato e ridipinto come si conviene, così la gente potrà starsene seduta al coperto senza paura che filtri l'acqua. In ogni caso, un bel risultato l'avete ottenuto. Ma il circolo ricreativo di Avonlea sarà la favola di tutti i paesi vicini d'ora in avanti, disse Anna con amarezza, e dobbiamo confessare che fu proprio così. Capitolo 10. Anna, tornando a casa da scuola un pomeriggio di novembre, lungo il sentiero delle betulle, era di nuovo convinta che la vita fosse una cosa meravigliosa. Era stata una buona giornata, tutto era andato bene nel suo piccolo regno. St. Clair Donnell non aveva avuto a che dire con gli altri ragazzi a proposito del suo nome. Prilly Rogerson aveva la faccia talmente gonfia per il mal di denti che non aveva tentato neanche una volta di civettare con i ragazzi vicini. Barbara Shaw ne aveva combinata solo una delle sue, rovesciando sul pavimento una buona quantità d'acqua, e Anthony Pye era assente. «Che bel mese è stato questo novembre», disse Anna, che non aveva perduto del tutto l'abitudine infantile di parlare tra sé e sé. Novembre di solito è un mese talmente spiacevole, come se l'anno si fosse accorto all'improvviso di stare invecchiando e non potesse far altro che piangere e crucciarsi per questo. Quest'anno sta invecchiando con molta grazia, come una signora piena di dignità che sa di poter essere affascinante anche con i capelli grigi e le rughe. Abbiamo avuto delle giornate incantevoli e dei tramonti deliziosi. Questi ultimi 15 giorni sono trascorsi così tranquillamente e perfino Davy si è quasi comportato bene. Sono davvero convinta che stia migliorando molto. Come sono quieti i boschi oggi. Non un mormorio, se non quel dolce venticello che fa le fusa tra le cime degli alberi. Sembra di udire la risacca su una spiaggia lontana. Come sono belli i boschi. Cari alberi, amo ognuno di voi come un amico. Anna si fermò per passare il braccio attorno a una giovane, slanciata betulla e baciarne il tronco color bianco panna. Diana, spuntando da una curva sul sentiero, la vide e scoppiò a ridere. Anna Shirley, tu fai solo finta di essere cresciuta. Mi sa che quando resti sola sei la stessa bimbetta di un tempo. Beh, non si può perdere tutti in un colpo l'abitudine di essere bambini, disse Anna allegramente. Vedi, sono stata piccola per 14 anni e ora sono grande solo da 3, scarsi. Sono sicura che in mezzo ai boschi mi sentirò sempre una bambina. Queste passeggiate da scuola a casa sono quasi l'unico momento che ho per sognare, a parte la mezz'ora o quasi prima di andare a letto. Sono talmente occupata a insegnare e a studiare e ad aiutare Marilla con i gemelli che di tempo per la fantasia me ne resta poco. Tu non sai che meravigliose avventure io vivo ogni sera per qualche momento dopo essere andata a letto nel mio abbaino. Mi immagino sempre di essere un personaggio molto brillante, pieno di successo, splendido, una prima donna famosa o un'infermiera della Croce Rossa o una regina. Ieri sera ero una regina. Non sai che meraviglia è fantasticare di essere una regina. Hai soltanto il divertimento senza averne tutti gli inconvenienti e puoi smettere di esserlo quando vuoi, il che nella vita reale non accade. Ma qui, tra i boschi, preferisco immaginare cose molto diverse. Sono una driade che vive in un vecchio pino o un piccolo folletto dei boschi color marrone che si nasconde sotto una foglia accartocciata. La betulla bianca, quella che mi hai sorpreso a baciare, è mia sorella. L'unica differenza è che lei è un albero, io sono una ragazza, ma in realtà non c'è nessuna differenza. E dove te ne vai, Diana? Dai Dixon. Ho promesso di aiutare Alberta a tagliare il vestito nuovo. Non puoi venire anche tu più tardi, Anna? Potremmo tornare a casa insieme. Potrei, sì, dal momento che Fred Wright è in città, disse Anna con espressione fin troppo innocente. Diana arrossì, scosse la testa e proseguì. Non aveva l'aria offesa, comunque. Anna aveva tutte le intenzioni di andare giù dai Dixon quella sera, ma non poté. Quando arrivò a Green Gables, trovò una situazione che bandì ogni altro pensiero dalla sua mente. Nel cortile le venne incontro Marilla, una Marilla con gli occhi di una pazza. Anna, Dora si è persa. Dora? Persa? Anna guardò Davy che si dondolava sul cancello del cortile. E gli lesse negli occhi una punta di allegria. Davy, sai dov'è? No, non lo so, disse Davy risolutamente. Non la vedo dall'ora di pranzo, te lo giuro. Manca da casa dall'una, disse Marilla. Thomas Lind si è sentito male di colpo e Rachel mi ha pregato di andare subito. Quando sono uscita, Dora stava giocando con la bambola in cucina e Davy stava facendo torte di fango dietro il fienile. Sono tornata a casa solo mezz'ora fa e di Dora non c'era traccia. Davy sostiene di non averla più vista da quando sono uscita. Infatti non l'ho vista, confermò Davy solennemente. Ma deve essere qua attorno da qualche parte, disse Anna. Non è tipo da avventurarsi lontano da sola, sai quanto è timida. Forse si è addormentata in una delle stanze. Marilla scosse la testa. Ho cercato per tutta la casa. Potrebbe essere in uno degli altri edifici. Seguì una ricerca accurata. Ogni angolo della casa, del cortile, delle altre costruzioni fu messo a suo quadro dalle due donne sconvolte. Anna girovagò nel frutteto e nel bosco stregato, chiamando Dora ad alta voce. Marilla prese una candela e andò a esplorare la cantina. Davy le accompagnò nella ricerca, una alla volta, ed era una vera miniera di idee in quanto ai luoghi in cui la bambina avrebbe potuto nascondersi. Finalmente si ritrovarono tutti e tre nel cortile. È una faccenda abbastanza misteriosa, brontolò Marilla. Dove può essere? Si chiese Anna afflitta. Forse è caduta nel pozzo, suggerì allegramente Davy. Anna e Marilla si guardarono negli occhi, impaurite. Quel pensiero le aveva perseguitate per tutto il tempo della loro ricerca, ma nessuna delle due aveva avuto il coraggio di formularlo. Forse, potrebbe essere, sussurrò Marilla. Anna, che si sentiva quasi svenire, andò al pozzo e vi guardò dentro. Il secchio appoggiava sul ripiano, all'interno. Laggiù, lontano, si scorgeva uno scintillio di acqua stagnante. Quello dei Cuthbert era il pozzo più profondo di Avonlea. Se Dora... No, Anna non riuscì ad affrontare quell'idea. Ebbe un brivido e si ritrasse. «Corri a chiamare il signor Harrison», disse Marilla, torcendosi le mani. «Il signor Harrison e John Harry non ci sono, sono andati in città oggi. Vado a cercare il signor Barry». Il signor Barry tornò con Anna, portando un rotolo di carta a cui era attaccato una specie di rampino che era l'estremità di un forcone da stalla. Marilla e Anna stettero a guardare, irrigidite e sgomente per l'orrore e la paura, mentre il signor Barry dragava il fondo e Davy, a cavalcioni del cancello, osservava il gruppo con il viso illuminato da un piacere immenso. Il signor Barry, infine, scosse il capo, con aria sollevata. «Non può essere laggiù». È molto strano, però, dove può essere andata? Ascolta, giovanotto, non hai idea di dove possa essere tua sorella? Ve l'ho detto un sacco di volte che non ce l'ho, disse Davy con aria offesa. Forse è venuto un vagabondo e l'ha portata via. Sciocchezze, disse brusca Marilla, sollevata da quella tremenda paura del pozzo. Anna, credi che possa essersi allontanata e che possa essere andata dal signor Harrison? Non ha fatto che parlare del pappagallo da quella volta che l'hai portata con te? Ma non posso credere che Dora sia andata così lontano da sola. Però andrò a vedere, disse Anna. Nessuno guardava Davy in quel momento, altrimenti avrebbe visto che netto mutamento era venuto nella sua espressione. Scese quatto quatto dal cancello e corse il più velocemente che poté con le sue gambette grasse in direzione del fienile. Anna si precipitò di furia attraverso i campi fino alla proprietà di Harrison, in uno stato d'animo poco incline alla speranza. La casa era chiusa a chiave, le imposte erano chiuse e non vi era segno di vita nei dintorni. Si fermò sulla veranda e chiamò Dora a squarciagola. Ginger, nella cucina retrostante, strillò e imprecò con furia improvvisa, ma tra quegli improperi Anna udì un pianto sommesso e querulo provenire dalla piccola costruzione nel cortile che il signor Harrison adoperava come capanno degli attrezzi. Anna volò alla porta, tolse il chiavistello e raggiunse in un attimo una creatura con il viso bagnato di lacrime, seduta sconsolatamente su un barilotto rovesciato. «Oh, Dora, Dora, che paura ci hai fatto prendere! Come hai fatto a entrare qua?» «Io e Davy siamo venuti a vedere Ginger», singhiozzò Dora, «ma non siamo riusciti a vederlo. Alla fine Davy è riuscito a farlo imprecare prendendo a calci la porta. Poi Davy mi ha portato qui, è corso via e ha chiuso la porta e io non potevo uscire. Ho pianto e pianto e avevo tanta paura e poi ho fame e ho freddo. Pensavo che non saresti mai arrivata, Anna». «Davy?» Ma Anna non riuscì a spiccicare altre parole. Portò Dora a casa con il cuore afflitto. La gioia di ritrovare la bambina sana e salva era soffocata dal dolore per la condotta di Davy. Era facile perdonargli la birichinata di aver rinchiuso Dora, ma egli aveva detto un mucchio di bugie, bugie belle e buone e a sangue freddo. Era questo il brutto, e Anna non poteva chiudere gli occhi di fronte a tale fatto. Aveva voglia di mettersi a sedere e di piangere dalla delusione. Aveva preso ad amare teneramente Davy, non sapeva lei stessa quanto, e la feriva in modo insopportabile scoprirlo colpevole di aver detto deliberatamente il falso. Marilla ascoltò il racconto di Anna in un silenzio che non faceva presagire nulla di buono per Davy. Il signor Barry rise e consigliò, in quanto a Davy, di farne una giustizia sommaria. Quando giunse a casa, Anna consolò e riscaldò Dora, che tremava e singhiozzava, le preparò la cena e la mise a letto. Poi tornò in cucina, nel momento esatto in cui Marilla vi entrava con faccia truce, conducendo, o meglio, trascinando il riluttante Davy, coperto di ragnatele, che aveva giusto poco prima trovato nascosto nel più remoto angolo della stalla. Con uno scossone lo scaraventò sul tappeto in mezzo al pavimento e andò a sedersi accanto alla finestra volta a levante. Anna sedeva accanto a quella volta ponente e tra loro stava l'imputato. Volgeva la schiena a Marilla ed era una schiena umile, sottomessa, spaventata, ma il viso era rivolto ad Anna e nonostante apparisse contrito, gli brillava negli occhi un luccichio quasi d'intesa, come se sapesse di aver sbagliato e capisse di dover essere punito, ma al tempo stesso sapesse di poter ridere in seguito con Anna dell'accaduto. Ma dagli occhi grigi di Anna non gli rispose neanche l'ombra di un sorriso, come forse sarebbe avvenuto se si fosse trattato soltanto di una birichinata. C'era qualcos'altro, qualcosa di grave e quasi repellente. Come hai potuto comportarti così, Davy? Gli chiese addolorata. Davy si contorse, imbarazzato. L'ho fatto solo per divertirmi, è tutto così tranquillo qui. È da tanto tempo che ho pensato che sarebbe stato divertente farvi prendere un grosso spavento, e infatti così è stato. Nonostante la paura e quel po' di rimorso, Davy sorrise nel ricordo. Ma tu hai detto il falso, Davy, ribatté Anna sempre più addolorata. Che cos'è il falso? Vuoi dire una grossa frottola? Voglio dire una storia che non era vera. Per forza, disse Davy con franchezza, se non l'avessi detta non vi sareste spaventate, l'ho dovuta dire. Anna cominciava a sentire la reazione della paura e degli sforzi fatti. L'atteggiamento ostinato di Davy fu la goccia che fece traboccare il vaso. Due grosse lacrime le brillarono negli occhi. Oh, Davy, come hai potuto? Riprese con un tremito nella voce. Non capisci qual è il male che fai? Davy era allibito. Anna piangeva. Aveva fatto piangere Anna. Un'onda di vero rimorso travolse il suo cuoricino affettuoso e lo sommerse. Corse da Anna, le si rannicchiò in grembo, le gettò le braccia attorno al collo e scoppiò in lacrime. Non sapevo che era male raccontare frottole, singhiozzò. Come puoi pensare che io lo sappia? Tutti i bambini del signor Sprott le dicevano regolarmente, ogni giorno, te lo posso giurare. Lo so che Paul Irving non ne dice, e io ho fatto quello che ho potuto per assomigliargli, ma ora credo che non mi vorrai più bene. Mi dispiace tantissimo di averti fatto piangere, Anna, non dirò mai più una bugia. Davy nascose il viso sulla spalla di Anna e si abbandonò a un pianto disperato. Anna, in un improvviso lampo di felice comprensione, lo tenne stretto e da sopra la sua zazzera riccioluta guardò Marilla. Non sapeva che fosse male dire le bugie, Marilla. Credo che per questa volta lo si possa perdonare se promette di non dirne mai più. Non lo farò mai più ora che so che è male, promise Davy tra un singhiozzo e l'altro. Se mi peschi ancora a raccontare balle, puoi. Davy si fermò un momento cercando una punizione adatta, poi concluse: puoi spellarmi vivo. Bene, Davy, aggiunse Anna, perché già che ci siamo, non devi più dire balle, devi dire bugie. Perché? Si informò Davy, mettendosi più a suo agio e alzando un visino interrogativo, tutto bagnato di lacrime. Balle non è la stessa cosa di bugie? Eh? Non è la stessa cosa? Non sono forse due parole quasi uguali? Balle è una parola di gergo, di uso popolare e piuttosto volgare, spiegò Anna. I bambini devono parlare in modo corretto. Quante cose non si devono fare, disse Davy con un sospiro. Non ho mai pensato che fossero così tante. Mi dispiace che sia sbagliato usare quella parola perché mi viene spontanea ed è molto comoda, ma dato che è sbagliato non la dirò più. Intanto, cosa vuoi farmi questa volta perché ho detto bugie? Voglio saperlo. Anna, supplichevole, guardò Marilla. Non voglio essere troppo dura con il bambino, disse allora Marilla. Evidentemente nessuno gli ha mai detto che non si devono dire le bugie, e quei bambini Sprott non erano una compagnia adatta per lui. La povera Mary stava troppo male per educarlo come si conviene, e immagino che non possa aspettarsi che un bambino di 6 anni queste cose le sappia per istinto. Ho l'impressione che dovremmo partire dall'idea che non sa nulla di ciò che è bene e ciò che è male, e che dovremmo ricominciare da capo. Ma dovrà essere punito per aver rinchiuso Dora. Non mi viene in mente altro che di mandarlo a letto senza cena, ma l'abbiamo già fatto troppe volte. Hai qualche altro suggerimento, Anna? Credo che non dovrebbe essere difficile con la fantasia che ti ritrovi. I castighi sono una brutta faccenda, Marilla, e a me piace immaginare solo cose piacevoli, rispose Anna, stringendo Davy con affetto. Esistono già tante cose spiacevoli a questo mondo che non serve a nulla immaginarne altre. Alla fine, Come al solito, Davy fu mandato a letto senza cena, con l'ingiunzione di restarvi fino a mezzogiorno dell'indomani. Evidentemente egli rimuginò qualcosa nel suo cervello, perché quando Anna salì più tardi in camera sua, si sentì chiamare sommessamente per nome. Entrando, lo trovò seduto sul letto, con i gomiti sulle ginocchia e il mento appoggiato alle mani. Anna, disse solennemente, è male per tutti dire bugie? Mi piacerebbe saperlo. Sì, certo. È male anche per una persona grande? Sì, certo. Allora, disse Davy con decisione, Marilla sbaglia perché anche lei dice le bugie. Ed è peggio di me perché lei lo sa e io non lo sapevo. Davy Keith, Marilla non ha mai detto una bugia in vita sua, ribatté Anna indignata. Sì che l'ha fatto. Martedì scorso mi ha detto che mi sarebbe accaduto qualcosa di terribile se non avessi detto le preghiere ogni sera. Io non le dico più da una settimana, proprio per vedere che cosa accade, non è successo niente, concluse Davy con tono offeso. Anna represse una gran voglia di ridere, convinta che se l'avesse fatto avrebbe commesso un grosso errore. Poi si adoperò volenterosamente a ristabilire la buona reputazione di Marilla. Ma come, Davy Keith, disse solennemente, qualcosa di terribile ti è accaduto e proprio oggi? Davy sembrava scettico. Immagino che vuoi dire che sono andato a letto senza cena, disse sprezzante. Ma questo non è terribile. Certo, non è che mi piaccia. Ma l'avete già fatto tante volte da quando sono arrivato qui che ormai mi ci sono abituato. E poi non risparmiate niente facendomi andare a letto senza cena, perché a colazione mangio il doppio. Non intendevo parlare di questo. Intendevo ricordarti il fatto che oggi hai detto una menzogna e devi. A questo punto Anna si chinò sulla sponda del letto e agitò severamente l'indice davanti al reo. Dire una cosa che non è vera per un ragazzo è quasi la cosa peggiore che possa capitargli. Quasi la peggiore. Vedi dunque che Marilla ha detto la verità? Ma io pensavo che qualcosa di terribile fosse insolito ed eccitante, protestò Davy in tono offeso. Di quel che tu hai pensato non si può dare la colpa a Marilla. Non sempre le cose terribili sono eccitanti, anzi, molto spesso sono soltanto sgradevoli e stupide. Eppure è stato divertentissimo vedere te e Marilla guardare giù nel pozzo, sospirò Davy abbracciandosi le ginocchia. Anna riuscì a mantenersi seria finché non ebbe disceso le scale. Poi crollò sul soffà del salotto e si mise a ridere finché non le fece male lo stomaco. Vorrei che mi dicessi cosa c'è da ridere tanto, intervenne Marilla alquanto sconcertata. Non mi sembra che ci sia tanto da ridere su quanto è successo oggi. Ah, riderai anche tu appena lo saprai, le rispose Anna. E Marilla allora sorrise. Il che dimostrava quanti progressi avessero fatto i suoi metodi educativi da quando aveva adottato Anna. Ma immediatamente dopo sospirò. Forse non avrei dovuto dirglielo, fece Marilla, anche se una volta ho sentito un pastore che lo diceva a un bambino. Ma mi aveva talmente esasperato. È stata la sera che tu eri al concerto a Carmody e che l'ho messo a letto io. Mi ha detto che non vedeva l'utilità di pregare, almeno finché non fosse diventato abbastanza grande perché Dio gli accordasse una certa importanza. Anna, non so proprio cosa faremo con quel bambino. Non so prevedere i pasticci che combinerà. Comincio a sentirmi scoraggiata. Oh, non dirlo, Marilla. Ricordati com'ero cattiva io quando venni qui. Anna, tu non sei mai stata cattiva, mai. Solo ora lo capisco, ora che ho imparato cos'è la vera cattiveria. Ti cacciavi sempre in qualche pasticcio, lo ammetto, ma avevi sempre un buon motivo per farlo. Devi invece è cattivo, semplicemente perché ci gode. Oh, no. Non credo che sia veramente cattivo, nemmeno lui, incalzò Anna in tono appassionata. Sono solo monellerie, e questo è un posto molto, troppo tranquillo per uno come lui. Non ha altri ragazzi con cui giocare e deve tenere occupata in qualche modo la mente. Dora è così a modino e compita che non è davvero la compagna di giochi che ci vorrebbe per un ragazzo come lui. Credo davvero che sarebbe meglio mandarli a scuola, Marilla. No, disse Marilla risolutamente. Mio padre ha sempre detto che un bambino non deve mai essere rinchiuso tra le quattro mura di una scuola prima dei 7 anni, e il signor Allan dice la stessa cosa. I gemelli possono prendere qualche lezione a casa, ma a scuola non andranno finché non avranno 7 anni. Bene, allora dovremo provare a educare Davy in casa, disse Anna allegramente. Con tutti i suoi difetti è davvero un tesoro di bambino. Non posso fare a meno di volergli bene. Marilla, può sembrare una cosa strana detta così, ma in tutta franchezza Voglio più bene a Devi che a Dora, nonostante sia così buona. Non so perché, ma per me è lo stesso, confessò Marilla. Non è simpatico perché Dora non ci dà alcun pensiero. Non esiste una bambina più brava di lei e si direbbe quasi che non ti accorgi se è in casa. Dora è troppo buona, disse Anna. Si comporterebbe allo stesso modo anche se non ci fosse un'anima a dirle quel che deve fare. È nata già grande e non ha bisogno di noi. E credo, concluse Anna colpendo nel segno, che amiamo sempre di più le persone che hanno bisogno di noi. E Devi ha terribilmente bisogno di noi. Ha di qualcosa certo bisogno, convenne Marilla, e Rachel Lynde direbbe che ha bisogno di una bella scarica di botte.